Está muy rico todo esto, la verdad. Ah, sí, tengo que decirte en italiano. Buon appetito. Ah, grazie. Prego. ¿Se dice así? Gracias. Capitolo 6. Il ristorante. 1 dicembre 2018. Pacifico confundido. Lavare i piatti risulta essere un momento magico, dove l'acqua scorre e i pensieri scorrono con lei. Mi trovo in questa nuova situazione, nella quale sono diventata improvvisamente padrona di un ristorante. Proprio sulla strada principale e proprio quella che porta alla spiaggia grande. Tutto è cominciato di fronte al mare, in uno di quei giorni nei quali stavo pensando che cosa fare della mia vita, dato che gli equilibri erano cambiati con la chiusura a tempo indefinito del locale di Vito. Mi piace andare a nuotare sempre nello stesso punto della spiaggia, dove gli ombrelloni si fanno più radi e i turisti quasi scompaiono. C'è una roccia sulla quale metto sempre le mie cose, esattamente in quel posto sicuro che posso controllare alle volte dall'acqua e che il mare non riesca a rubare quando le onde improvvisamente si fanno grandi e sale la marea. Ho fatto amicizia con un ragazzo. Parliamo della vita, di quello che accade nel paraíso e poi scopro che gli hanno dato in gestione quel ristorante che aveva chiuso le serrande da tempo. È proprio dove tutti ci incontriamo ogni giorno, sedendoci sugli scalini di fronte al supermercato delle due sorelle tristi e della panetteria della francese che vende panini a forma di libretto con gocce di cioccolato a pochi soldi. Una settimana fa, più o meno, ho messo la macchina per fare la pasta fresca sul bancone e la magia è cominciata. Che vive e lavora. Ciao! È difficile spiegare la bellezza di quando i sogni si trasformano senza fretta in realtà. Lo avevo immaginato, alle volte sperato, ma davvero non pensavo che potesse realizzarsi questa idea vaga e confusa che avevo nella mente di cucinare per persone sconosciute e come anche quella di avere un ristorantino dal quale ascoltare costantemente il canto del mare. Sembra poi che l'essere italiani sia un privilegio e una condanna per tutti noi nomadi viaggiatori del mondo. La primissima volta che me lo hanno detto era nel mio primissimo viaggio oltreoceano. Sei italiana, puoi cucinare spaghetti per tutti. E quella volta ero arrivata a 4500 metri sul livello del mare, tra le montagne degli 8000. Le stesse montagne di cui ci raccontavano le loro avventure negli anni 80, mio cugino e sua moglie. Quando ci mostravano le diapositive con quei mondi sconosciuti e successivamente sperati, nei quali la gente viveva ancora in armonia con la natura e le sue tradizioni antiche. Che vas a preparare? Pasta e fagioli. Pasta e ravioli? Pasta e fagioli. Ah, ok. E come la preparo? Aha. Non tengo idea. No, via. Ok. Come la preparo? Con frijoles della sierra? Via. Così, con la condanna e il privilegio di essere italiana, ho viaggiato a lungo e cucinato nei vari continenti nei quali sono stata. Con le famiglie, nelle comunità dimenticate dal resto del mondo, facendo la pizza nei forni a legna, guardando poi i bambini felici. Ho cucinato nei fornelli elettrici con piccole pentole, per grandi quantità di pasta e molte persone, inventando ogni volta soluzioni differenti. Proprio come avevo imparato a fare nei lunghi mesi di campeggio libero con quel camper che i miei genitori avevano comprato quando mio fratello portava ancora il pannolino. Viaggiare con loro mi ha insegnato ad arrangiarmi, a dormire senza paura in luoghi sconosciuti, a guidare per ore e ore e ore senza mai stancarmi, come anche ad essere curiosa di fronte a tutto quello che è ancora nuovo e sconosciuto. Ahora foto de cangrejo. Sí. Ahora foto de cangrejo. Uè, yo estoy jugando contigo. Poi anche io avevo cominciato a viaggiare. Quella lenta transumanza tra nord e sud di questo paese, città, mare, piccola città all'ombra di un vulcano e ritorno, immaginando che forse un giorno sarei stata come quella ragazza che mi raccontavano viaggiare con la sua macchina per fare la pasta fresca e un furgone. Scrivo da uno dei tavolini di legno, frutto di un riciclo esasperato e dipinti tristemente di nero, del mio locale, il Pacifico Confundido, come lo avevano battezzato alcuni mesi fa. Eh sì, rimane confundido, confuso appunto, per il fatto che per me è tutto nuovo e sconosciuto. Dato che adesso io sono la padrona, quella che fa la pasta fresca, che intrattiene i clienti, quella che fa i conti e che fa in modo che gli ubriachi non diano fastidio a tutti gli altri. Alle volte lavo anche i piatti, perché i miei collaboratori se ne vanno prima della chiusura, che oggi il mare è bellissimo. Il mio nuovo amico e socio, quello che risolve i problemi e che trova i soldi, l'ho ribattezzato il Piccolo Principe, per la sua fobia a mangiare con le mani, in un paese nel quale tutti mangiano con le mani, e anche per il suo terrore dell'acqua profonda. Ma anche perché dice spesso perle di saggezza, che rimangono sospese nell'aria per molto tempo dopo che lui se n'è andato. Tra un'ora apriamo. Vediamo se arrivano, come mi hanno promesso, gli amici della banda, quella dei sognatori, artigiani, giocolieri e musicisti di strada che qui vive. E magari anche qualche turista che non fa mai male. Un, due, tre, 15 dicembre 2018. Giardino incantato. Durante il giorno le strade sono affollate di gente triste che viene da quelle città convulse e sempre uguali. Camminano ciabattando e sbuffando per ogni fatto della vita. Non si accorgono che stanno camminando per le strade di uno degli ultimi luoghi dove ancora le persone credono che un altro mondo è possibile. Com'è se è stata qua? Ogni sera poi arrivano gli stessi turisti ignari a mangiare pasta al pomodoro o alla puttanesca. E io, come una ballerina sulle punte, riesco a barcamenarmi tra tutti i problemi che ci sono ogni volta. Comunque resiste la ciurma di questo piccolo galeone pirata, dove tutti lavorano assieme per un piatto di pasta o per qualche soldo. Passiamo le ore calde, prima del tramonto, a giocare a domino o a memory. Arrivano spesso anche i bambini della strada, quelli che i genitori lasciano liberi tutto il giorno di fare quello che vogliono, perché loro, gli adulti, sono sempre troppo impegnati a costruire un nuovo castello da affittare, a quei nuovi turisti ignari che arriveranno qui quando questo borgo di pescatori sarà sulle pagine della Lonely Planet. Giochiamo assieme per ore. I bambini sono spesso più bravi di noi, adulti distratti. Così vincono e ridono e sono felici. Domani abbiamo deciso che faremo la pasta tutti assieme. Dicono che verranno poco prima del tramonto. Spero che si ricordino, perché passano le loro giornate nelle matte scorribande tra la spiaggia e le mangrovie. Le persone che vengono al ristorante sembrano attirate proprio dalla macchina della pasta che ho messo sul bancone. Si siedono e guardano il processo di trasformazione, dal panetto di pasta crudo alle tagliatelle. Bevono una birra e mi fanno mille domande, mentre si sporcano i gomiti e gli avambracci di farina. Io racconto di mia nonna e di quando insegnava a me e a mio fratello questa antica arte di fare la pasta. Dell'amore e dell'emozione nei pomeriggi che ci univano, con le risa e i racconti. Proprio di quelli che le nonne condividono solo con i propri nipoti. Già, la famiglia. Sembra che io abbia un volo intercontinentale tra qualche mese. Ci sto pensando se lasciare tutto, sogni compresi, e ritornare dove non mi sento a casa e dove credo di avere già vissuto per molto, troppo tempo. Thank you. Quasi ogni sera, quando chiudiamo le serrande del ristorante, restiamo a ballare con gli ultimi clienti e gli amici che arrivano per un piatto di pasta e spesso ad ascoltare le canzoni di un amico della capitale, dalla voce forte e suadente. Con la sua chitarra ed i suoi occhi da giaguaro, innamora sempre tutte le straniere. Io guardo il tutto divertita, mentre lavo gli ultimi piatti e pulisco la cucina. Servo le ultime birre e poi forse se ne andranno tutti a casa. Ieri sera è venuto Faccia d'Angelo, con tutta la ciurma dei disperati che lavorano sulla spiaggia. I ragazzi che piantano gli ombrelloni e intrattengono i turisti ignari e che cercano le donne dalla pelle più bianca e il portafoglio più pieno. Il vento, ieri notte, era forte. Trasportava la rabbia e le urla di un uomo che rincorreva verso il mare uno della banda della spiaggia che chiamano il pelato. Ho messo a fuoco la scena, come se fosse un film. È stato solo un momento, un battito di ciglia. Sentendo la voce che abbaiava, le bianche sono tutte mie. E vedere poi che imbracciava un macete e che era Manuel, il padrone del locale che stiamo affittando. Già, come ripete spesso il piccolo principe, mentre sta vincendo un'altra partita a domino, la gente mostra da sola quello che è realmente. Tu solo aspetta. Però io sono felice con mis amigos. Sonrían pues, no lo quiero ver aburrido. Ah, ya viste cómo rimó.